tuoi corti capelli come sono cambiati, non mi dire chi li ha carezzati. Fossi un pittore brucerei il tuo ritratto, ma sono solo un amante distratto. Io non posso ballare, non voglio, mi lasciasti solo col mio orgoglio. La mia anima in un labirinto dove ho spento il fuoco con le mani. Ma come vuoi che io ti dica rimani se ti sfiora eppure siamo lontani? Più ci penso più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente diversa tu sei. Di uomo sono poche, perdono, io mi avvicino e riscopro il tuo seno, e il tuo profumo come un dolce veleno spezza il ricordo di pure emozioni. Lei aveva una paura dolce, il tuo sguardo taglia come una falce, io di te subisco la presenza, ma lei non posso fare senza. Sono qui con del mio cuore consumo, come lei non mi amerà nessuno. Più ci penso più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente più bella tu sei. La mia sete cresce finché l'acqua ci pensa più mi viene voglia di lei. Più ci pensa più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente diversa tu.